Focus Economia. Sei minuti, prima puntata della settimana di Focus Economia, lunedì 3 agosto. Buon pomeriggio allora da Vincenzo Miglietta. Settimana che si è aperta con il ritorno alle contrattazioni da parte della Borsa di Atene dopo 5 settimane di chiusura, durante le quali sono successe tante cose, dal referendum proposto dal Premier Tsipras all'intesa poi della Grecia con i creditori, dall'uscita dall'esecutivo del ministro Varoufakis alla richiesta da parte di alcuni cittadini greci dell'accusa di tradimento per lo stesso ex responsabile dell'economia ellenica. Ma dicevamo del ritorno alle contrattazioni della Borsa di Atene, non è stato certo un esordio positivo, al punto che si può parlare di vero e proprio tonfo, -22,9% in apertura questa mattina, perdite quindi che si sono stabilizzate intorno al -16%, pesanti le vendite su tutti i settori, compreso quello dei titoli finanziari, in rosso del 20%, trascinati al ribasso dalla prima banca commerciale greca, la National Bank of Greece, in calo del 30%. Negli ultimi 12 mesi Atene ha perso il 47%. Incorporando il calo di oggi sull'insieme degli ultimi 12 mesi, la borsa greca ha accumulato una flessione del 47%, risultando uno dei mercati peggiori al mondo. Ma l'andamento di Atene sorprendentemente non ha influito sui listini europei, tutti positivi. Evidentemente la riapertura della borsa greca è stata comunque interpretata come un ritorno alla normalità da accogliere come aspetto positivo. Allora guardiamo insieme i listini europei. Francoforte, il DAX 30 più 1%, Parigi più 0,50%, Londra perde meno 0,31%. Per quanto riguarda invece Wall Street, i listini sono tutti in questo momento in territorio negativo. Da segnalare, ma ne parleremo più tardi in modo più approfondito, l'accordo definitivo per Exor, che ha acquistato PartnerRe. L'operazione prevede l'acquisizione di tutte le azioni ordinarie della società di riassicurazione. Contestualmente PartnerRe ha risolto l'accordo di fusione con Axis, closing, ovvero i tempi di chiusura entro i primi 3 mesi del 2016. L'accordo firmato oggi è molto positivo, ha commentato il presidente di Exor, John Elkann. Per quanto riguarda sempre i mercati, lo dicevamo, i mercati asiatici tutti in territorio negativo, e soprattutto Shanghai con un meno 2,30%. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, anche questi sono in territorio negativo. Per quanto riguarda Wall Street, dobbiamo sottolineare che risente in alcuni casi anche positivamente del fatto che i redditi personali a giugno sono cresciuti dello 0,4% in linea alle stime, e le spese per consumi hanno visto un più 0,2%. La crescita delle spese però è stata la più lenta da febbraio, cosa che va ad alimentare ulteriormente il dibattito sulla tempistica con cui la Federal Reserve inizierà ad alzare i tassi di interesse. Ma prima delle headline e delle notizie internazionali, uno sguardo alle cose italiane. Ricorderete il cosiddetto bonus Poletti, ovvero l'una tantum di restituzione dell'indicizzazione, prima bloccata dal governo Monti e poi sbloccata da una recente sentenza della Consulta. Ebbene, oggi scatta la restituzione. Infatti, come stabilito dall'INPS, è in arrivo il rimborso dei trattamenti, il cui blocco era stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Al normale assegno mensile saranno quindi aggiunti gli arretrati maturati tra il 2012 e i primi 7 mesi del 2015, per effetto della rivalutazione introdotta dal Governo con il decreto del 21 maggio scorso. I destinatari saranno i percettori di pensione tra 3 e 6 volte il minimo INPS, compresi quindi tra 1.405 euro lordi e 2.810 euro al mese. Le somme oscilleranno tra i 300 e i 1.000 euro circa, con il beneficio massimo di 955 euro per gli assegni da 1.800 euro al mese. Ed ora le notizie in breve, le headline. Ricordo la possibilità di mandarci dei vostri commenti al numero SMS 349-238-6666 oppure alla nostra pagina sul sito di radio24.it. Ora, per quanto riguarda le materie prime, partiamo dall'oro in calo dello 0,3% a 1.091 dollari l'oncia. E il petrolio a New York che scende del 2,5% a 45,9 dollari al barile. Ora rapidamente, Cina, Stati Uniti e Gran Bretagna. Per quanto riguarda Pechino, tornano le preoccupazioni sullo stato di salute dell'economia cinese. La lettura finale dell'indice PMI manifatturiero di luglio di Caixin e Market Economics è stata di 47,8, il minimo da due anni, in calo rispetto al 48,2 della lettura preliminare e al 49,4 di giugno. Scende anche l'indice manifatturiero PMI del governo di Pechino. Questo a riprova, se mai ve ne fosse bisogno, lo abbiamo visto pochi istanti fa, dell'andamento comunque sostanzialmente negativo dell'economia cinese. Abbiamo visto anche come continua l'aspetto non positivo della borsa di Shanghai. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, settore manifatturiero, in luglio l'ISM manifatturiero, l'indice che misura la performance del settore negli Stati Uniti, ha rallentato il passo e ha deluso le aspettative. L'indice di riferimento redatto dall'Institute for Supply Management è calato a 52,7 punti dai 53,5 di giugno, quando aveva toccato il massimo del 2015. Gli analisti avevano previsto un dato invariato a 53,5 punti, da segnalare che un valore al di sopra della soglia dei 50 punti indica una fase di espansione della congiuntura. Ed ora forse la notizia più interessante di queste che stiamo leggendo insieme dell'economia internazionale, perché per quanto riguarda la Gran Bretagna si preannuncia un nuovo piano di privatizzazioni, ricorderete quelle famose della Thatcher. Ora George Osborne lancia una nuova sfida su questo punto e mira a superare il record raggiunto dalla Lady di Ferro. Secondo il Financial Times, il ministro del tesoro britannico spera nel corso di quest'anno di mettere sul mercato asset pubblici per 32 miliardi di sterline, circa 45 miliardi di euro, molti più del record segnato nel 91, quando un altro governo conservatore raccolse 11,8 miliardi di sterline, 20,5 miliardi di pound in termini attuali, attraverso la vendita di BT, National Power, e delle compagnie regionali fornitrici di elettricità. Osborne ha manifestato il desiderio di privatizzare una parte della quota da 32 miliardi di sterline che lo Stato detiene nel colosso bancario RBS, salvato durante la crisi economica del 2008-2009. Fra gli altri asset che dovrebbero finire sul mercato c'è la quota ancora in mani pubbliche di Royal Mail, stimata in 1,5 miliardi di sterline. Ed ora dalla Gran Bretagna al Giappone, visita a Tokyo del premier italiano Matteo Renzi, conferenza stampa con il primo ministro giapponese. Tanti i temi al centro dei colloqui, soprattutto l'importanza dell'export tra i due paesi, e quindi possiamo ascoltare l'intervento del presidente del Consiglio italiano. Apparteniamo al G7, apparteniamo al G20 e condividiamo spesso valutazioni sui principali dossier. Credo che sia importante continuare in questa direzione e assicurare tutto l'impegno dell'Italia perché l'Europa sia rapida nell'approvazione del Free Trade Agreement e di tutti gli accordi che sono oggetto dell'attenzione dell'Europa. Shinzo ha detto che entro l'anno noi faremo di tutto, sia sul partenariato strategico che sull'accordo di libero scambio, per mantenere questa scadenza, perché è un'operazione win-win, un'operazione buona sia per il Giappone che per l'Europa. Un'operazione dunque buona per l'Italia e per il Giappone. Noi e Tokyo siamo due dei cinque paesi al mondo con un export manifatturiero superiore ai 100 miliardi di dollari, ha ricordato Renzi. Siamo partner e amici e non solo alleati. E con il Premier Abe ci unisce un'idea di sviluppo e non solo dell'austerity, ma dalla crescita e dagli investimenti. Spazio a Tokyo per Renzi per parlare anche però dei fiori all'occhiello dell'economia italiana, tra questi Finmeccanica, molto attiva in Asia. La storia di Finmeccanica è importante per i rapporti tra Italia e Giappone. Finmeccanica ha scelto come partner Hitachi e ha molti spazi di iniziativa in Giappone, specie dopo quel pacifismo proattivo che Abe ci ha spiegato con gli elicotteri realizzati con Kawasaki, più una serie di opportunità, così Renzi. Finmeccanica è un'importante azienda partecipata dallo Stato, ha scelto un partner per la questione ferroviaria, dovendo dismettere l'asset ferroviario, e ha scelto Hitachi, ed è una scelta molto importante. Allo stesso tempo Finmeccanica ha molti spazi di iniziativa, specie dopo la nuova interpretazione sul pacifismo proattivo che ha spiegato molto bene il primo ministro Abe, di intervento in Giappone, a cominciare dagli elicotteri Augusta Westland che vengono fatti con Kawasaki e con tutta una serie di altre opportunità. Ecco il segno dell'amicizia e del rapporto di condivisione tra i due paesi e tra i business dei due paesi. E prima di affrontare tra brevissimo il primo tema della trasmissione dedicato proprio alla Grecia e lo abbiamo anticipato al tonfo della borsa di Atene, due brevi notizie che poi riprenderemo anche nell'ultima parte di Focus Economia. Per quanto riguarda sempre l'Italia, l'indice PMI manifattura ai massimi dal 2011 a luglio, rialzo a 55,3 punti, PMI Germania in lieve calo a 51,8 punti. Dall'altra parte invece, fotografie da parte dell'Istat sulla produttività in Italia negli ultimi 20 anni, che sarebbe diminuita. Secondo l'Istat, nel periodo 95-2014 la produttività totale dei fattori è calata ad un tasso medio annuo dello 0,3%, a fronte di un incremento medio dello 0,5% del valore aggiunto e dello 0,7% dell'impiego complessivo di capitale e lavoro. Al contrario, la produttività del lavoro è aumentata a un tasso medio annuo dello 0,3%, ed ancora restiamo in Italia, pagamenti a rilento. Questa è una notizia sempre interessante perché riguarda la pubblica amministrazione. A fine 2014 ammontavano ancora 70 miliardi di euro i debiti commerciali della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese fornitrici, solo 5 miliardi in meno di fine 2013. Ricorderete quanto si era detto e quanto si era fatto affinché si rimettessero in moto nell'economia italiana i soldi che lo Stato doveva alle aziende. Di questi 40 miliardi sono certi, scaduti ed esigibili, lo ricordiamo. A fine 2013 erano stati stanziati 56 miliardi, ma evidentemente c'è ancora molto da fare. Ultima notizia delle nostre headline, delle notizie in breve, dedicata al San Raffaele, di nuovo in salute. Il piano di risanamento dell'ospedale San Raffaele di Milano è stato completato con successo. Sono passati 4 anni dagli scandali finanziari, ma sembra che il futuro sia positivo. Ed ora la Grecia. Siamo dunque dunque al primo tema, al primo argomento di Focus Economia, il ritorno alle contrattazioni della borsa di Atene. Dopo 5 settimane di stop vi è stato un ritorno agli operatori di mercato, seppur con importanti restrizioni. Crollo però nel primo giorno, l'indice principale molto debole dall'avvio, ha chiuso in calo del 16%, pesantissima la giornata per i titoli bancari, quasi tutti prossimi alla soglia di perdita del 30%. Ricordiamo che si è trattato del più lungo periodo di chiusura del mercato azionario greco dagli anni 70. Gli investitori greci saranno in grado di acquistare azioni e obbligazioni, derivati e warrant, ma solo se useranno denaro nuovo come fondi trasferiti all'estero, depositi in contanti, soldi guadagnati dalla vendita di azioni future o da saldi dei conti esistenti su investimenti detenuti da società di intermediazioni elleniche. Gli investitori stranieri invece saranno esclusi da qualsiasi restrizione, a condizione che fossero già attivi nel mercato prima dell'imposizione del controllo sui capitali alla fine di giugno. Quindi evidentemente il quadro è molto complesso, lo affrontiamo con due ospiti. Saluto Andrea Cuturi, responsabile investimenti Atilia SGR. Buon pomeriggio Cuturi. E Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Buongiorno a voi. Subito quindi una domanda ad entrambi, partiamo da Vittorio Darold che è con noi. Vittorio, ti aspettavi un esordio così negativo per quanto riguarda la borsa di Atene? Sì, assolutamente, era nei fatti, un esordio di questo tipo non poteva che essere molto complicato perché 5 settimane bloccate non avevano altra soluzione che appunto avere una vendita. L'ETF che era stato quotato a New York nel periodo aveva perso il 19%, era quindi nei fatti. Poi il PIL greco da più 2,5% era andato a meno 3%, quindi un meno 6% di prospettiva non possono che far calare il listino azionario. Meno 30% è il limite massimo della borsa di Atene, quindi non si poteva fare peggio. Resta il fatto, l'amaro in bocca, perché naturalmente hai una banca greca che ha una filiale in Turchia di 3 miliardi e oggi la banca greca ne vale 2,8, cioè addirittura la capitalizzazione della società greca vale meno di una filiale in Turchia. Questa è la situazione attuale che proprio dipinge plasticamente lo stato di crisi del paese e delle istituzioni bancarie greche. Ecco Vittorio, uscendo dai numeri che sono importantissimi, però forse abbiamo perso, parlo per noi utilizzatori finali della crisi a livello giornalistico, un po' di vista la situazione politica. Tu che segui quotidianamente l'evoluzione di Atene, brevissimamente, dove si sta andando? Il governo è comunque più forte dopo l'accordo con Bruxelles o invece è più debole viste anche le polemiche con l'ex ministro Varoufakis? No, assolutamente, Tsipras è deciso a portare avanti il terzo piano di aiuti che è quello che darà 86 miliardi, terzo piano di aiuti da 86 miliardi dopo i 240 miliardi già dati. Naturalmente tutti questi miliardi non saranno incassati da Atene, ma serviranno soltanto a pagare i crediti, quindi ancora una volta sarà una partita di giro, ma necessaria, perché senza questo Atene rischia questa volta grosso, rischia di uscire dall'Eurozona. Schäuble l'ha detto in maniera molto chiara il 12 e 13 luglio: se Atene non accetta le regole, non fa le riforme strutturali, cioè abolire le baby pensioni e le agevolazioni fiscali per gli agricoltori greci, questa sarà l'ultima volta e a questo punto ci sarà l'uscita per 5 anni da Atene. Tsipras è convinto di questo e quindi ha ingaggiato una battaglia furiosa con la sua estrema sinistra, l'ala radicale di Lafazanis, che infatti ha già mandato a casa dai dicasteri dell'energia e vuole appunto con un convegno a settembre o al massimo con delle elezioni anticipate a ottobre chiudere la partita. Atene è sempre quindi in bilico e da quello che ne uscirà saranno gli equilibri futuri dell'Europa. Ricordo, non è una questione greca, è il futuro dell'Eurozona. Ecco Vittorio, tra l'altro oggi leggevo pochi istanti fa addirittura sciopero dei medici che annunciano cure solo in cambio di contanti e poi un ascoltatore ci scrive al 349-238-6666 il crollo della borsa di Atene significa che gli investitori non si fidano del risanamento della Grecia. Sì, esattamente, gli investitori, tenete conto che anche gli investitori greci non hanno le mani legate in questo momento perché sono con i controlli di capitali, quindi puoi comprare azioni se hai ancora soldi in casa, nella tua cassaforte o hai depositi all'estero oppure dei guadagni di borsa che naturalmente in questo momento non so da dove possono venire, quindi è in una situazione anche con le mani legate, quindi il controllo dei capitali blocca eventuali rimbalzi, ma anche gli investitori stranieri non hanno acquistato equity in questo momento, azioni le hanno lasciate da parte, hanno puntato sui bond perché il bond in qualche modo, se Atene resta nell'euro, è comunque un investimento un pochino più sicuro. Sull'equity in questo momento c'è naturalmente molta freddezza, mancando poi le stesse banche che naturalmente non potevano intervenire, questo è un momento veramente difficile per questo tipo di azioni, tenuto conto che 5 settimane di chiusura appunto, è un periodo talmente lungo che si fa fatica a cercarli appunto negli archivi storici. Ecco, invece una curiosità per Andrea Cuturi, responsabile investimenti Atilia SGR. Cuturi, il tonfo di oggi di Atene, per quanto atteso, certo non nelle dimensioni, è stato comunque episodico per quanto riguarda oggi o secondo lei ci dobbiamo aspettare una settimana o più settimane difficili per la borsa ellenica? Ritengo che oggi sia solo l'inizio. Condivido quanto detto dal vostro collega sull'eccezionalità del fatto che questo mercato è stato chiuso per 5 settimane. C'è un solo precedente che ricordo negli ultimi anni, è stato quello della Russia, e la Russia ancora oggi paga quello quell'episodio. Molti partecipanti non hanno partecipato al mercato, come dicevate, molti venditori non hanno potuto vendere perché molti titoli sono stati sospesi, diverse banche sono sospese per buona parte della sessione in eccesso del 30%, così come molti titoli non sono riusciti a far prezzo e non hanno scambiato. Questo vuol dire sostanzialmente che quel meno 16 che oggi l'indice sta mostrando mostra solo parzialmente la perdita che in questo momento è diciamo, in se stesso. Ritengo che sarà una settimana di passione per il listino greco. A un certo punto, come spesso succede in queste occasioni, inizieranno a vedersi anche i compratori di trading stretto, magari internazionali, gli hedge funds anglosassoni da questo punto di vista sono maestri, ma dal mio punto di vista questa è un'economia che ha delle condizioni talmente disastrate ed un indice talmente dominato dai finanziari che passeranno dei mesi se non degli anni prima che torneremo a parlare della Grecia come di un mercato e di un paese investibile. Ecco, due domande per entrambi gli ospiti. Perché la National Bank of Greece, quindi la banca commerciale greca, ha perso in media più della media degli altri listini? E per dare un po' di speranza anche agli investitori, dico, quando si potrà riguardare con positività ad Atene? Forse a questo punto, se la situazione è così negativa, aveva ragione la Merkel o forse di più Schäuble, Cuturi e poi Darold. Allora, sono passate 5 settimane e sono di mercato chiuso, sono passati 3 mesi di trattative folli con un governo che ha fatto alcune volte gabbana veramente interessanti. L'economia ne esce in grande difficoltà, quindi rispetto ai commenti di alcuni politici, per esempio Schäuble o la Merkel, le condizioni sono cambiate sistematicamente. Ripeto, è un indice dominato dai finanziari, dalle banche, l'economia greca è in grande difficoltà, degli 85 miliardi di questo possibile bailout, possibile, non ancora definitivo, circa 25-30 saranno destinati alle banche, il mercato si trova a dover decidere se tenere o meno dei titoli di cui non si è in grado di capire il valore, perché sono banche che hanno perso i depositi finché non sono stati interrotti, hanno emesso credito che si è brutalmente deteriorato per le condizioni dell'economia, non esiste più una qualsiasi forma di generazione di fees per quanto riguarda il sistema bancario, quindi è cambiato completamente lo scenario. Quindi secondo me in questo momento nessuno si faccia venire in mente di andare a raccogliere e a fare il bottom fishing. Al terzo giorno di università americana ti insegnano che andare a cercare il bottom di un mercato è uno dei mestieri più pericolosi del mondo. Qualcuno quindi ecco il consiglio, ecco, noi non diamo mai consigli, ma in generale non si può aspettare di acquistare oggi per avere un ritorno nel breve periodo. Vittorio Darold, parlavamo della banca, della National Bank of Greece, e qual è stato il suo ruolo, e forse a questo punto un tonfo così forte della borsa di Atene di oggi rafforza quanti, soprattutto in Germania, non volevano il salvataggio della Grecia. Sì, esattamente, la banca è la banca più importante, la banca che però ha anche più sofferenze, perché è quella che appunto ha subito di più anche il travaglio dell'economia greca. Le sofferenze bancarie sono a un livello record, naturalmente quando si ferma l'economia non si pagano più i crediti e le banche ne hanno risentito, e la borsa è una borsa sostanzialmente in mano alle banche, non ci sono altre fonti, non sono state ad esempio privatizzate il settore energetico, quindi non ci sono dei settori anticiclici, quindi quando c'è un tonfo di questo tipo la borsa non ha paracadute che possono frenarne la caduta. Questo è un elemento importante. Poi ripeto, i controlli di capitali sono stati un altro elemento che rafforzano questa caduta. Io penso che nei prossimi giorni sarà appunto una settimana di passione per la borsa greca, che è il termometro della situazione politica, anche perché c'è un'incertezza enorme. Se Atene non capisce che deve assolutamente rispettare le regole, fare le riforme e portare a casa entro il 20 di agosto i soldi necessari a pagare i bond della BCE, quindi entrare sotto la protezione della BCE, perché lo ricordo, la BCE non può ancora comprare i bond del quantitative easing così come fa per tutti gli altri 18 paesi dell'Eurozona, e Atene è ancora fuori questo importantissimo meccanismo di acquisto. Solo se rispetta le regole, fa approvare nei tempi le riforme e arriva a questo importante traguardo, allora la BCE potrà dare il via libera all'acquisto sul mercato dei bond greci. Questo sarebbe un segnale molto importante. L'altro segnale molto importante sarebbe la ricapitalizzazione delle banche greche, di cui si parla tra 25 e 30 miliardi. E se dovessero scegliere non la ricapitalizzazione attraverso un prestito, che non farebbe che aggravare ancora il debito, ma attraverso entrare nell'azionariato delle banche greche, questo sarebbe veramente un segnale molto importante di fiducia dei creditori internazionali verso la Grecia. Questo è veramente il segnale che forse farebbe svoltare il mercato. Naturalmente qui ci sono delle grosse incognite e delle grosse battaglie a livello europeo sul tipo di salvataggio da usare attraverso lo ESM. Non dimentichiamo che il bail-in, cioè la partecipazione di azionisti, obbligazionisti e depositanti, è uno degli elementi che da questo punto di vista dovrebbe entrare a far parte prima di far giocare la carta al fondo salvataggio europeo. Ecco, mi pare di capire che quindi quando è il momento della verità, tipo la riapertura della borsa di oggi di Atene, nessuno poi alla fine si fida di nessuno. Cuturi, allora un'ultima domanda e poi salutiamo i nostri ospiti. A cosa sono serviti tutti quei giorni di attesa, il braccio di ferro fino alle ore più piccole della notte, se poi ecco non si ha fiducia nel governo greco e nelle riforme che verranno fatte? Perché il mercato non mette un po' di fiducia sul governo di Atene? Perché il mercato non ha gli elementi, il mercato detesta investire o avere comunque un coinvolgimento in situazioni in cui non ci sono delle certezze. Come dicevamo, il tema della ricapitalizzazione delle banche è un tema fondamentale: quanto costerà? 25, 30, 40 billion? Quanto saranno gli attuali azionisti, saranno diluiti da questi aumenti di capitale, se saranno aumenti di capitale? C'è veramente molta incertezza. In più non si è capito sinceramente che cosa il governo greco ha intenzione di fare in autunno, e cioè se fare un reshuffle del governo e andare dritto per dopo la scadenza del 20 agosto, o fare nuove elezioni e quindi rimettere tutto in discussione, magari anche vincendole, ma comunque rimettendo tutto in discussione. Tutti questi elementi per i grandi investitori internazionali sono inaccettabili, c'è troppa incertezza e quindi si vende. Bene. Le grandi vendite ancora non si sono viste, nel senso che le variazioni sono importanti, ma se uno guarda i volumi non sono così importanti, quindi meno 30 dei titoli menzionati e il meno 16 dell'indice sono dei numeri importanti, certo, ma non sono quelli veri, nel senso che i volumi veri li vedremo nei prossimi giorni. Bene, quindi molta incertezza, non ci si fida ancora di Atene. Ringrazio i nostri ospiti, Andrea Cuturi, responsabile investimenti di Atilia SGR, Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Piazza Affari ha chiuso poco fa, però evidentemente c'è fiducia in Europa, perché non solo Piazza Affari, FTSE MIB 0,75, ma anche Parigi, anche Francoforte in terreno positivo. Evidentemente c'è comunque fiducia sul fatto che si è tornati qua quasi alla normalità con la riapertura della borsa di Atene. Dopo meteo e pubblicità, la borsa. Entreremo nello specifico della borsa italiana e i dati su manifatturiero e produttività. Focus Economia. Nuovo insieme 17.39, Focus Economia, Vincenzo Miglietta, ampio spazio fino a poco fa, ritorno alla contrattazione della borsa di Atene, ricordo chiusa dal 26 giugno scorso, un ritorno non certo positivo con perdite che sono andate dal 22% iniziali al 16% medio di poco fa. Il tonfo della Grecia però non sembra aver impressionato i mercati europei positivi, dicevamo quindi eccezion fatta per il crollo di Atene, ma come sempre a Focus Economia ci si concentra in questo spazio con la borsa italiana di Milano, con noi la collega Eleonora Micheli di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Eleonora. Buonasera. Buonasera a te, partiamo da FCA, sempre bene in attesa dei dati sulle immatricolazioni italiane di luglio che verranno diffusi alle 18. Sì, esatto, FCA ha continuato a correre, ricordiamo che ormai da giovedì, da quando il gruppo ha pubblicato la trimestrale superiore alle attese, che appunto i titoli continuano ad andare su. Del resto sono piovuti tutta una serie di giudizi positivi dopo che l'azienda ha reso noto che l'utile netto ha registrato un progresso del 69% a 333 milioni. Poi c'è grande attesa, come hai detto tu, per le immatricolazioni che verranno pubblicate a breve alle 6, ma non solo, intanto le immatricolazioni in Francia sono andate molto bene, in effetti la casa auto a luglio ha registrato un progresso delle vendite del 19,2% contro un rialzo del mercato limitato solamente al 2,3%. Ecco, tra l'altro, notizia sempre del pomeriggio, leggevo le case automobilistiche tedesche Audi, BMW e Daimler hanno stretto un accordo da 2,8 miliardi di euro con Nokia per rilevare il sistema di mappe della società finlandese, quindi un settore auto molto attivo. Ma Eleonora, concentriamoci sulla notizia così diciamo della giornata di Exor, holding degli Agnelli, che ha acquisito l'impresa di riassicurazione Partner Re. Sì, infatti sulla i titoli questa mattina andavano bene, spinti in alto sempre dalla buona performance di FCA, poi hanno sbandato, sono andati anche in terreno negativo dopo la notizia dell'acquisizione di Partner Re, visto che questo comporterà un esborso per Exor. L'operazione, sempre se andrà in porto, comporterà il pagamento di 6,9 miliardi di dollari per il riassicuratore americano. Dovrebbe andare in porto, ma il condizionale è ancora d'obbligo, visto che nel contratto stesso si dice che praticamente i soci di Partner Re potranno valutare eventuali offerte concorrenti fino al prossimo 14 settembre 2015. Quindi appunto ancora il condizionale è d'obbligo, ma la borsa già pensa che alla fine l'operazione andrà in porto. I titoli comunque di Exor hanno chiuso in progresso dell'1,18% dopo quella sbandata del pomeriggio, anche confortati, ripeto, dall'ottima performance di FCA. Ecco, poi parte Exor, bene Mediaset, che dopo le incertezze della scorsa settimana guadagna spinta dai nuovi assetti nel settore televisivo. Telefonica ha acquisito Digital Plus e continua quindi l'integrazione fra telefonia e broadcasting. Sì, Esatto, infatti c'è uno studio che ha oggi acceso i riflettori proprio su Mediaset, uno studio di Chevret dove ci si interroga su cosa succederà tra settore delle TLC e settore del broadcasting. Si assiste infatti a una sempre maggiore integrazione dei due settori. Ricordiamo che Vivendi detiene quasi il 15% della stessa Telecom Italia, inoltre ci sono anche in altri stati, da British Telecom alla stessa Telefonica, che hanno fatto delle integrazioni di questo genere, e quindi appunto gli analisti si interrogano su quello che può essere il futuro di Mediaset, dando in là ovviamente una serie di illazioni positive. Poi della galassia, diciamo, Berlusconi, oggi è andato bene anche Mediolanum, ha fatto sul finale più 5,15%, e anche in questo caso è stato uno studio di Citigroup a spingere in alto i titoli, che invece nell'ultimo periodo hanno registrato un andamento un po' contrastato. Ecco, ricordavi giustamente, dopo Mediaset anche Mediolanum, anche questo titolo in terreno positivo. Per chiudere con i titoli che hanno segno più, ci concentriamo su Telecom, di cui tra l'altro anche il Sole 24 Ore aveva annunciato come imminente la fusion. Allora, per quanto riguarda Telecom, riflettori puntati su tutto il settore della telefonia. Proprio ieri il Sole 24 Ore ha riferito che procede a passo spedito la fusione, la trattativa per la fusione tra Wind e Tre Italia, operazione che potrebbe concretizzarsi già entro la metà di questo agosto, anzi notizie potrebbero arrivare già nei prossimi giorni. Ovviamente questa notizia ha dato verba a tutto il settore delle TLC e in primis a Telecom Italia, che così ha rialzato la testa e messo a segno un progresso del 2,49%, portandosi a 1,23 euro. Ecco, ti chiedo brevemente, ci sono stati riflessi in borsa per quanto riguarda Finmeccanica, ne ha parlato anche il Premier in Giappone, poi rapidamente in terreno negativo leggo Saipem, BCA MPS, E7, STM Microelectronics, Tenaris e Generali, le assicurazioni generali. Ma per quanto riguarda Finmeccanica è andata bene, più 2,5%, accelerato proprio sul finale, anche sulle dichiarazioni di Renzi, che ovviamente in Giappone ha espresso ha dato in là una serie di acquisti, dicendo ha molti spazi di iniziativa, specie dopo le nuove interpretazioni sul pacifismo proattivo di intervento in Giappone. Detto questo, invece, per quanto riguarda gli altri titoli, Saipem paga ancora la debolezza del petrolio con il WTI che è scambiato a $46 al barile. Poi per quanto riguarda le banche sono rimaste al palo Unicredit, che è rimasta invariata, ma soprattutto MPS meno 1,22%, entrambe devono ancora pubblicare i conti del primo semestre. Mercoledì sarà la volta di Unicredit, il 6 agosto quella di MPS. In particolare il 6 agosto ricordiamo che sarà anche l'ultimo giorno di lavoro del presidente Alessandro Profumo. Grazie ad Eleonora Micheli di Radio Cor, il Sole 24 Ore. Adesso il traffico e poi cercheremo di capire dove sta andando l'economia italiana guardando i dati contrastanti. Lo abbiamo anticipato nella prima parte, bene l'indice manifatturiero, in calo invece la produttività però degli ultimi anni. Focus Economia. '17:48 Focus Economia, ultima parte della trasmissione dedicata ad alcuni importanti indici della nostra economia. Sono dati contrastanti sulla situazione del paese: da un lato l'occupazione che non riparte, dall'altro un graduale seppur lenta ripresa dell'attività industriale confermata dall'indice PMI diffuso oggi. Saluto subito la nostra ospite Alessandra Lanza, partner della società di consulenza Prometeia. Buon pomeriggio. Before I lay my eyes on you. Aspettiamo adesso di ricollegarci con la nostra ospite. Ricordo quali sono però questi dati contrastanti della nostra economia: quello manifatturiero, PMI, che sale ai massimi dal 2011, e dall'altra parte una fotografia sulla produttività italiana degli ultimi 20 anni fatta dall'Istat. Si assiste allora ad una flessione, meno 0,3% medio annuo, aumenta invece la produttività del lavoro più 0,3%. Con la nostra ospite tra breve andremo quindi ad analizzare tra l'altro proprio uno studio fatto tra la società di consulenza Prometeia e Intesa San Paolo, che hanno diffuso il consueto rapporto di analisi sui settori industriali, che evidenzia una ripresa della domanda interna con ordini nazionali in crescita del 3,5% nei primi 5 mesi del 2015, l'incremento più marcato degli ultimi anni. La ripresa del ciclo produttivo è confermata dal grado di utilizzo degli impianti, tornato ai livelli di metà del 2008. A trainare il manifatturiero italiano è il comparto auto, a cui è riconducibile per il 70% la ripresa complessiva del fatturato registrato nella prima parte dell'anno. Bene anche elettronica, farmaceutica e sistema moda. Soffrono ancora gli elettrodomestici e la siderurgia, su cui pesa la situazione dell'Ilva di Taranto. Chiedo allora alla nostra ospite, Alessandra Lanza, se la mia premessa era giusta, se comunque vi sono aspetti positivi per i quali dobbiamo guardare con ottimismo al futuro dell'economia italiana. Buonasera Lanza. Buonasera a lei. Buonasera a tutti. Certamente sì, direi che la ripresa è sicuramente in atto, è ancora una ripresa differenziata, ma vediamo che man mano si sta consolidando. I segnali di consolidamento ci arrivano per la prima volta in moltissimi mesi, soprattutto dal mercato interno. Gli ordini interni sono in crescita del 3,5% nei primi 5 mesi dell'anno, il che è un'ottima notizia, perché fino a pochi mesi fa l'unico traino che vedevamo al nostro comparto manifatturiero era dato dall'estero, mentre adesso ritrova vivacità il mercato interno, e ne è prova anche il fatto che appunto la saturazione degli impianti produttivi ricomincia a essere tale, vicina a livelli che non sperimentavamo più da metà del 2008. Ciò non significa che non ci siano ancora nubi all'orizzonte. Dal punto di vista dell'andamento dei mercati mondiali abbiamo una serie di nodi critici che abbiamo sperimentato in tutti i primi 5 mesi di quest'anno, che si trascinano: la situazione russa, i disordini geopolitici in tutto il Medio Oriente, il rallentamento molto marcato della Cina e di altre economie tendenzialmente importanti per le esportazioni italiane, come il Brasile in America Latina. Ecco, quindi un'economia internazionale con luci ed ombre per quanto riguarda però, e lo diciamo con sorpresa positiva, l'economia italiana a tornare a trainare. Poi mi dica se sbaglio, ma sono proprio quei settori tradizionali che hanno fatto la fortuna del nostro paese, quindi dal comparto auto, ma anche l'elettronica, la farmaceutica e il sistema moda. Sì. Assolutamente sì, in particolare l'auto spiega circa il 70% della crescita della manifattura nei primi mesi dell'anno, spiega anche quasi interamente l'aumento di PIL che abbiamo avuto, con il primo segno positivo da oramai più o meno una ventina di trimestri, e dunque certamente tornano centrali i settori manifatturieri tipici del Made in Italy. Non tutti uguali, ci sono settori che continuano a scontare difficoltà, come per esempio gli elettrodomestici, ma quelli scontano una difficoltà proprio del settore, non di tutta la filiera, tant'è che invece la filiera del mobile sta ripartendo e ha un traino significativo anche sui mercati internazionali. Tra l'altro sono tutti settori ad un impatto di valore aggiunto importante, quindi di un target medio-alto. Secondo lei come si spiega questo aspetto? Cioè tornano a consumare importanti settori della società? Sì, sicuramente c'è un ritorno al consumo, nonostante la ripresa che vediamo sugli ordini interni passi di più dai beni di investimento e di meno dai beni di consumo, quindi per ora quello che vediamo sul mercato interno è un grande traino dei beni di investimento, che vuol dire che le nostre imprese che hanno ricominciato a funzionare finalmente fanno ripartire un ciclo scorte che non avevamo più visto dagli anni della crisi. Sul settore dei consumi continua a rimanere più forte la componente estera, ma certamente cominciamo a vedere muoversi anche qualcosa sulla componente interna, sicuramente sulle fasce medio-alte di prezzo. Bene, bene, grazie ad Alessandra Lanza, partner della società di consulenza Prometeia. Economia dunque che riparte, ripartono i consumi interni dell'economia italiana. Ha parlato dal Giappone il presidente del Consiglio Matteo Renzi, è in Giappone il corrispondente del Sole 24 Ore Stefano Carrer. Accoglienza ha avuto innanzitutto Stefano il Premier italiana, e come il Premier italiano e come viene visto il nostro paese da Tokyo, dall'economia giapponese? Dunque è stato accolto molto bene, tra l'altro Renzi e il Premier giapponese Shinzo Abe si chiamano per nome, Matteo e Shinzo, cosa che non sarebbe stata possibile 3 anni e mezzo fa, quando l'ultimo premier italiano venne a Tokyo, fu Mario Monti, e all'epoca deluse molto i giapponesi perché si dichiarò contrario all'avvio di negoziati di libero scambio tra il Giappone e l'Unione Europea. Questa volta invece Renzi e Abe hanno fatto mostra di andare d'accordo su tutto, e tra l'altro hanno entrambi la nomea di persone che di leader che danno priorità alla crescita e alle riforme rispetto a una concezione di austerità come variabile indipendente dalle condizioni effettive dell'economia. Ecco, quindi, Stefano, dunque quindi sintonia sul libero scambio. Sintonia dunque sul libero scambio da parte dei due premier. Possiamo ascoltare allora il passaggio di Renzi in conferenza stampa. Stamani mattina abbiamo anche incontrato una comunità significativa, rilevante, di imprenditori e manager, di businessmen. Italia e Giappone sono 2 tra i 5 paesi che hanno un export manifatturiero superiore a 100 miliardi di dollari. Dunque hanno una potenza e una forza nella esportazione dei propri prodotti che è straordinaria. È ricchissimo l'interscambio dal punto di vista di valori oltre che di condivisioni azionarie. Queste dunque le parole del Premier Renzi dal Giappone, Stefano Carrer del Sole 24 Ore da Tokyo, due paesi dalle potenzialità enormi, diceva Renzi. Sì, assolutamente, tra l'altro ho anche detto che l'obiettivo nostro deve essere nell'arco di 10 anni di aumentare le nostre esportazioni di 300 miliardi di euro. Quindi un obiettivo ambizioso in cui si inserisce anche l'apertura maggiore del mercato giapponese, che dovrebbe appunto risultare da un accordo di libero scambio con l'Unione Europea. E tra l'altro, per quanto riguarda la nuova politica giapponese nel settore della sicurezza e della difesa, Renzi ha dichiarato di appoggiarla, di appoggiare appunto un ruolo internazionale più attivo del Giappone, e tra l'altro queste nuove misure, diciamo, del Giappone per alzare il suo profilo internazionale e avere un ruolo maggiore nel settore della sicurezza potranno aprire, ha detto Renzi, anche nuove opportunità di cooperazioni per Finmeccanica nel settore della difesa con l'industria della difesa giapponese. Grazie allora, grazie a Stefano Carrera del Sole 24 Ore dal Giappone. Per oggi mi fermo qui, un ringraziamento a Mauro Del Corno per l'assistenza al programma, ad Alessandro Chiappini in regia, un saluto da Vincenzo Miglietta.